Bene, benvenute e benvenuti ad Al Buio Stivi, un simposio nell'etere dedicato all'ascolto, questa magnifica capacità sensibile, cognitiva, intellettuale ed emotiva che proveremo ad abbracciare in molte declinazioni, sfaccettature e sfumature. Io sono Alessandro Brighetti, sono un artista visivo con un sacco di manie, sono un consumatore bulimico di musica, un conduttore radiofonico, ma non sono minimamente un esperto dell'argomento ascolto. Ho optato per non indugiare sulle coincidenze che hanno mosso la mia volontà, se non necessità, di realizzare questo tentativo di approfondimento, cosparso di possibilità centrifughe, senza però alcuna pretesa esaustiva. Sentire è un processo che dura tutta l'esistenza, ascoltare no. Ascoltare, inoltre, è un verbo e un'azione che implica e comprime in sé una moltitudine di declinazioni e di pratiche. Agostino diceva, riferito al tempo, se nessuno me lo chiede, lo so spiegare, se devo spiegarmi, non lo so. E penso che l'affermazione sia facilmente parafrasabile col concetto di ascolto, quantomeno dentro di me. Al buio, Stivi, è quindi un esperimento, un lusso forse, è un tentativo di spiegarmi uno dei tanti temi che premono lì alla soglia dei miei bisogni e possibilmente anche alla soglia altrui. Al buio, Stivi, è un tentativo di non essere turisti delle nostre orecchie. Ho la fortuna di essere accompagnato in questo percorso da una compagine tentacolare di autrici e di autori, i cui linguaggi e le cui rappresentazioni scaturiscono o inducono direttamente al tema che affrontiamo, un tema che mi piace poter dire tentiamo di celebrare. Srotolare il discorso sulla concentricità del sentire e dell'ascoltare è innanzitutto trattare di stati soggettivi, ma anche di pratiche. Sentire è un'esperienza passiva che accompagna l'esistenza. Ascoltare, invece, implica una volontà attiva di attenzione e di partecipazione. In fin dei conti, il compartimento sensibile è un sistema vasicomunicanti, capace all'autoregolamentazione attraverso dinamiche di compensazione e di preservazione molto, molto raffinate. I sensi si parlano, si ascoltano e si capiscono. Beati loro. Questa obesità ultracontemporanea dell'immagine visiva, l'iconofagia bulimica, è un sistema scompensatorio e questo è noto. L'iperstimolazione del senso della vista sottrae spazio ed energie ai restanti sensi. E questo, a parere mio, è un punto dolente. Spesso, quando scrollo compulsivamente Instagram, per esempio, mi accorgo di farlo in modalità muta. È un modo per preservarmi? È una forma di boicottaggio? Un'economia energetica? Una tattica di sopravvivenza? L'udito di per sé è diventato un senso scudo, indaffarato incessantemente a difendere se stesso ed il proprio ruolo, a isolarci dall'antropofonia, il rumore antropico di fondo, a isolarci dal brusio del lamento e a cascata dalle mille maleducazioni sonore. Ed è la propaggine più fruttuosa dell'udito a pagare le conseguenze di questa mitridatizzazione, un verbo che noi bolognesi non dovremmo mai pronunciare. L'ascolto, infatti, a parere mio, naviga in brutte acque, a tratti sottostimato e declassato a mero atto di sensibilità. L'ascolto, qui proviamo ad abbracciarlo in ogni sua forma, fisiologica, intellettuale, cognitiva, emotiva e anche metaforica. L'ascolto che ti colloca nel presente assoluto del qui ed ora, della vigilanza e della consapevolezza. L'ascolto capace di rallentarti come un animale di fronte al pericolo, capace di allargarti all'assimilazione di te e dell'altro, capace al consiglio, capace di tradurre il rumore in armonia, capace anche di prescindere le orecchie e spostarsi sul corpo e nel corpo. L'ascolto come alleato, quindi, l'ascolto come atto politico, l'ascolto come armatura biologica, per citare il buon vecchio Carl. Ho optato per approfondire delle tipologie di ascolto e di pratiche prettamente fenomenologiche, usando il suono come leva per la consapevolezza acustica. Ho calcato la mano anche sul rapporto di diversi ascolti interpersonali. Altre modalità di ascolto più astratte sono altrettanto presenti e fondamentali. Mi riferisco per esempio all'ascolto di sé attraverso la pratica o il lusso della psicoterapia, di cui peraltro sono un fiero sostenitore, ma nei confronti della quale, ebbene, non mi sentivo pronto a parlarne in questo simposio. Ho optato inoltre per un sottofondo sonoro naturale e ben specifico. I grilli, come piccoli aghi diffusi, esplodono la mia bolla di sapone e mi portano in me, e mi basta poco, fortunatamente. Aprono una via diretta e privilegiata al mio posizionamento nel qui e ora. Questa capacità, o possibilità, l'ho ritrovata anche in una pratica basata proprio sull'ascolto, il deep listening, pratica teorizzata e propugnata da Pauline Oliveros, una compositrice, teorica ed educatrice nata un secolo fa in Texas. Portando il punto focale sul suono, inteso non solo come onda ma come energia, Pauline Oliveros sviluppa concetti e relative pratiche quali l'ascolto profondo e la consapevolezza sonora, i cui effetti riverberano sull'entità uomo in maniera sostanziale. E sono quindi sinceramente molto emozionato ad introdurre i nostri primi ospiti, Diana Lola Posani e Marco Di Martino. Diana, Marco, ciao, benvenuti, grazie di essere qua con noi. Ciao a te, ciao agli ascoltatori. Ciao a tutti. Allora, Diana Lola Posani è una sound artist ed una facilitatrice di ascolto profondo certificata dalla Deep Listening Foundation. Marco De Martino è compositore e lavora come ricercatore presso il Conservatorio di La Spezia. Diana, allora, Pierre Schaffer, un teorico musicale mitologico direi e compositore, nella seconda del metà del Novecento inizia a fare ordine nella fenomenologia dell'ascolto. Definisce quattro tipologie di ascolto: oggettiva, soggettiva, astratta e concreta. Poi prova ad identificare nei verbi udire il processo di identificazione di un suono, sentire il processo passivo e fisiologico riferito all'identificazione fisica di un suono, ascoltare, la percezione soggettiva volta a produrre astrazioni partendo da un suono, e intendere, che tratta il suono come segno capace di produrre significati. Per intenderci, per l'appunto, si intendono le parole. Noi ci concentriamo sull'ascolto, Diana, a sua volta raffinato in ascolto profondo, in ascolto attivo, in ascolto strutturale, ascolto autonomo, eteronomo e ascolto quantico. Lo stesso Schaffer individua nella Oliveros la teorica dell'ascolto profondo, il deep listening per l'appunto. Innanzitutto definiamo la struttura del deep listening e delle sue modalità e delle pratiche. Sì, allora il deep listening è una tipologia di ascolto che in qualche modo racchiude appunto tutte queste sottocategorie, ma si occupa più che altro di un campo, che è un campo relazionale, che c'è fra la persona o insomma l'oggetto che emette suono e la persona oggetto che riceve questo suono. E fra queste due polarità c'è in mezzo un campo, uno spazio, che viene definito ascolto dell'ascolto. E il deep listening si concentra molto su questa terza cosa, insomma, che diventa centrale. E il deep listening, in termini più pratici, si concentra su tre parti dell'ascoltare umano, ovvero la propriocezione del corpo, quindi tutto ciò che ha a che fare con tecniche somatiche e di rapporto appunto con l'ascoltare che va al di là delle orecchie. Poi si concentra invece sull'ascoltare quello inteso in senso più tradizionale, quindi tutto ciò che passa attraverso le orecchie e quindi che contiene tutte le sottocategorie che hai appena elencato. E poi un altro tipo di ascolto che molto difficilmente viene portato, diciamo, in ambito accademico rispetto al lavoro di Pauline, ma che è l'ascolto nel sogno, dove insieme alla sua compagna ha stabilito anche tutta una serie di pratiche che permettono all'ascolto di continuare anche dopo lo stato di veglia, e quindi di creare questa consapevolezza in modo uniforme fra le due parti della nostra vita, quella durante il giorno e quella durante la notte. Tu sai, Diana, che il nostro timpano reagisce fisicamente, fisiologicamente ai suoni che noi sogniamo? Sì, l'ho letto da qualche parte, proprio riportata dalla compagna di Paolina. Brava. Una cosa che mi ha affascinato moltissimo. Incredibile. Anche perché esiste questa, diciamo, questa condizione nel nostro corpo che si chiama circuito audiofonatorio, per cui noi riusciamo a riprodurre con la nostra laringe soltanto cose che abbiamo già ascoltato, quindi frequenze che noi abbiamo ascoltato con il nostro orecchio. E quindi per me è molto affascinante comunque scoprire che il nostro timpano reagisce anche a suoni che non provengono da di fuori di noi, perché significa che anche la nostra laringe poi e la nostra voce porta con sé anche tutti quei suoni che vengono considerati immaginari o meno reali, diciamo. Credi che sia una forma di memoria ancestrale? Qualcosa che portiamo nel DNA, per esempio? O nel DNA culturale? Questo intendi dire memoria ancestrale rispetto al suono del sogno? Sì. Al suono del sogno? Anche alla questione della laringe. Sono domande molto difficili, perché comunque ti pongono davanti, no, al motivo per cui siamo strutturati in un certo modo, che sicuramente io non ti saprei rispondere in modo semplice. Neanch'io. Però sicuramente credo che la cosa che mi affascina di più da notare è quanto questo riuscire ad assorbire i suoni intorno a noi e, diciamo, coagularli all'interno della nostra voce, quindi della nostra identità, ci mostri chiaramente quanto siamo tutti intersecati e quanta parte di questa porosità, di questo intersecarsi, ha a che fare anche con il suono. Questa, diciamo, è l'ambito che io posso arrivare a toccare. Tutto il resto è molto misterioso ed è anche bello che rimanga così. Sono d'accordo, sono totalmente d'accordo. E quindi la pratica dell'ascolto, ascoltare l'ascolto, che dinamiche ha? Come si mette in pratica, per l'appunto? Come ascoltare l'ascolto? Questa è una bella domanda. Vedersi vedere, no? Diceva Magrelli, il poeta, che è un atto, rispondo io magari. Sì, poi... Diciamo che posso aggiungere a quello che diceva Diana, che l'atto percettivo può essere in qualche modo incarnato anche attraverso il solo gesto nel farlo, cioè non aumentare, non immettere altro se non ciò che è ascoltare, in qualche modo è creare un silenzio interiore, crearsi, abitare il silenzio per abitare l'ascolto. Abitare l'ascolto forse è un concetto fondamentale che la stessa Oliveros in qualche modo ci trasmette, e non soltanto lei ma anche molti artisti sonori hanno cercato di in qualche modo affrontare il suono stesso come matrice del tempo e anche dello spazio. Quindi il saper ascoltare il tempo attorno a noi, il saper sentire, percepire delle condizioni del tempo, in qualche modo ascoltarsi e ascoltare è in qualche modo, sì, una pratica. Sì, che va, più vai in profondità in una direzione, più vai in profondità anche nell'altra direzione, cioè più riesci a spostare la tua posizionalità d'ascolto verso qualcosa, qualcun altro, più automaticamente hai anche più coscienza della tua posizione nell'ascoltare. L'ascolto è osservare, quindi è come con gli occhi, ma fatto, diciamo, in maniera diversa, e ovviamente il campo è invisibile. Iniziamo in effetti ad entrare e a inoltrarci in questo in questa fenomenologia assolutamente intima, individuale e condivisa allo stesso tempo. Succede che Maurice Merleau-Ponty, nella sua Fenomenologia della percezione, che secondo me è un testo sacro, afferma, riferito all'ascolto, un suono soggettivo che risuona fuori di me nello strumento. Un suono atmosferico che è fra l'oggetto ed il mio corpo. Un suono che risuona in me come se io fossi diventato il flauto o il violino. E infine c'è un ultimo stadio di ascolto in cui l'elemento sonoro scompare, diventando l'esperienza di una modificazione di tutto il mio corpo e di tutto il mio essere. Identifica quindi nell'ascolto un processo di trasformazione. Bellissima questa suddivisione, devo dire, è veramente bella. E questo processo di trasformazione viene sostenuto anche attraverso la pratica del deep listening, immagino. Sì, assolutamente. Diciamo che fondamentalmente tutti gli esercizi che si svolgono nel deep listening sono volti a uno spostamento di consapevolezza e quindi a un altro stato di coscienza, che è il motivo per cui poi, come dicevamo prima, l'ascolto profondo è un ascolto che in qualche modo ingloba tutti gli ascolti. E infatti la cosa che trovo interessante poi nella pratica della mia facilitazione è il fatto che è come se gli esercizi fossero delle scatole, dei contenitori, ma di cui non si sa mai poi il contenuto. Cioè che ogni volta che mi convinco di sapere più o meno in che direzione io sto portando le persone quando propongo una determinata cosa, poi arriva una persona che mi racconta un'esperienza totalmente diversa. E questo va a decostruire anche un po' quello a cui noi siamo abituati, no? Del fatto che l'esercizio viene strutturato con l'idea che ti deve condurre a quella cosa lì. E quindi che esiste un giusto, uno sbagliato, certo. Un fuori dall'esperienza prevista, un dentro l'esperienza prevista. Mentre invece, come se fosse un percorso prestrutturato. Esatto, mentre invece quando si entra nell'ambito percettivo questa cosa scompare totalmente. E gran parte del lavoro che faccio io come facilitazione è quello di cercare di convincere le persone che io sto offrendo soltanto una cornice, no? Molto ben strutturata, che può contenere l'esperienza, quindi di cui si possono fidare, ma che poi qualsiasi cosa succeda all'interno di quella cornice, tutto rientra all'interno del giusto. Mi fai venire in mente l'affermazione di Gustavo Roll, non so se avete presente chi fosse questo personaggio, per l'appunto Savauda, novecentesco, che faceva degli esperimenti che rasentavano la trascendenza, diciamo, e lui si definiva in effetti una grondaia che riusciva solo a incanalare il flusso esistenziale. Detto questo, l'ascolto è quindi una forma di attenzione e l'attenzione è una delle forme dell'ascolto. L'attenzione come software cerebrale e l'ascolto è una forma di connessione col sé. Assolutamente. È una connessione con il sé ed è un modo per in qualche modo fare spazio, in realtà. Almeno spesso anche io nella mia attività didattica o compositiva lego molto il momento della scrittura stesso, dello stare sul tavolino a magari iniziare a immaginare che dalla finestra emerga un determinato suono. E in qualche modo devo fare spazio sul tavolino, ma devo fare spazio dentro di me. E quindi in qualche modo c'è una sorta di campo largo che devo iniziare a costruire, un po' come quasi, anzi, fosse un'architettura del silenzio che piano piano deve far risuonare ciò che deve risuonare. È particolare però, Marco, come l'uomo, l'umanità cerchi delle pratiche, delle metodologie per connettersi col sé attraverso per esempio meditazione, anche assunzione di sostanze, mettiamola così, quando poi sarebbe abbiamo tutti insito e in nuce una possibilità di connessione col sé che passa attraverso le orecchie e la consapevolezza delle orecchie. E l'accettazione e la compassione, che sono due temi fondamentali dello sviluppo del sé, si sviluppano anche da si sviluppano anche dal prestare appunto ascolto in maniera imparziale al continuum spazio-temporale del suono. In questo modo poi si rendono possibili la scoperta e l'esplorazione in senso lato. E tutto ciò può e dovrebbe, a parer mio, accadere tanto a livello individuale quanto a livello sociale. Sì, credo che poi vado io. Devo dire, ha detto Marco a mia discolpa. No, effettivamente ho fatto il furbo. Ho fatto il furbo perché ovviamente quando si tratta a livello sociale, ecco, in qualche modo ogni volta dico parlo per me e quindi parlo per quella che è la mia attenzione, perché certo. Un termine è una parola per me molto importante, quella che hai detto, cioè il termine di attenzione. L'attenzione è qualcosa che è politica in qualche modo, perché significa entra nell'ambito di quello che vuoi non vuoi, ne parlavamo anche se ricordi, nell'ambito della spiritualità. Certo. Cioè un'attenzione significa un'accettazione profonda del sé, cercare di scavare e di capire attraverso le orecchie ciò che è l'altro, quindi sapere ascoltare l'altro. In qualche modo la pratica del deep listening, come anche la pratica soltanto del suonare, può essere un'attenzione, è vero, allo strumento, al suono, a quello che tendenzialmente ci aggrada a livello estetico, fisico, percettivo, ma allo stesso tempo è anche un sapere in qualche modo levigare la nostra la nostra attenzione stessa, e quindi sapere in qualche modo, per me, stare zitti e in qualche modo iniziare a far stare zitto la proliferazione mentale. Spesso, no, nella meditazione si parla di proliferazione mentale, che è un concetto in cui in qualche modo spesso anche io da fruitore del Vipassana, che è una pratica insomma legata al buddismo, spesso si parla di attaccamento alle cose, e in qualche modo l'azione dell'ascolto diventa in qualche modo distaccarsi da se stessi, distaccare e, come dico sempre, creare uno spazio interno, uno spazio che poi risuoni vuoto ma che in realtà si riempie poi dell'altro, e quindi in qualche modo diventa sociale proprio per questo, l'atto politico, saper ascoltare, saper sentire e ascoltare veramente. Oltre a essere un atto politico, è anche un atto eroico, no? In un momento come quello contemporaneo in cui l'individualismo viene messo sul piedistallo. Credo che molto spesso l'atto del porgere attenzione sia molto, come dici tu, coraggioso e doloroso per le persone, perché significa riconoscere i limiti della propria attenzione, nel senso che i nostri pattern di attenzione esistono proprio perché la nostra attenzione non è infinita, e la nostra psiche ha tantissime, no, limitazioni, e quando le persone iniziano a fare degli esercizi di attenzione si rendono conto di tutti i limiti che hanno, del fatto che non possono ascoltare pienamente se stessi mentre ascoltano anche pienamente ciò che accade al di fuori di loro, mentre ascoltano pienamente anche cosa accade nel loro corpo. L'attenzione può essere allargata, è comunque diciamo un'arte, quindi si dice così in ambito zen, no? Che non è una cosa data come il sentire, l'ascoltare invece è proprio un'arte, quindi non mi piace un paragone muscolare, però sicuramente è un qualcosa che più lo abiti, lo frequenti, più puoi spostare questi limiti, puoi renderli un po' più elastici, però rimarranno sempre, e quindi ci sono due temi. Primo, la frustrazione, il fatto di rendersi conto che il proprio punto di vista non è oggettivo ma è fortemente soggettivo, e quindi che lì dove porti l'attenzione tendenzialmente è perché hai dei preconcetti, dei pregiudizi, delle preferenze, e molto spesso il superio che scalpita, certo. Molto spesso questo per le persone crea una frustrazione incredibile, di rendersi conto di non essere la realtà assoluta delle cose, è molto frustrante. E poi del fatto che l'attenzione, mi ricordo che ne parlava anche Simone Weil, è un regalo che che si fa, no? Quindi c'è il fatto che se io porgo attenzione verso una determinata cosa, lì ci sarà una crescita, lì c'è cura, e quindi l'essere consapevoli dei limiti dell'attenzione, per rendere essere consapevoli di dove la si sta ponendo l'attenzione, è proprio lo strumento per poi poter essere consapevoli di dove metterla, ed è una cosa che impatta tantissimo la nostra vita e la vita di quelli che abbiamo attorno, il fatto di aver coscienza di ogni passaggio della nostra attenzione. È un atto eroico a tutti gli effetti. Assolutamente. Allora, ragazzi, rimanete con me perché dobbiamo nutrire la nostra radio con la pubblicità, al termine della quale riprendiamo il nostro discorso. Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. Parcheggio gratuito. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato. Allora, Diana, Lola Posani e Marco Di Martino, torniamo nel nostro, a immergerci nei nostri discorsi. Mi piacerebbe approfondire la relazione fra l'ascolto e la creatività. Certo. Il deep listening, anche il deep listening, tende a sostenere, a fomentare questa relazione. Sì, assolutamente. Gli esercizi di deep listening si dividono in due macro categorie, che sono esercizi puramente esperienziali, diciamo, che hanno a che fare con il puro ascolto, che di solito sono quelli che io porto quando faccio lavoro di divulgazione, perché sono esercizi che in qualche modo, anche se si fa un lavoro breve e lo si fa con persone che arrivano da ambiti totalmente diversi, sono esercizi che uniscono un po' tutte le esperienze. E poi invece ci sono degli esercizi che magari arrivano ad una fase successiva con persone di esperienze diverse, oppure magari con musicisti può essere portato come primo lavoro, che sono esercizi invece dove il deep listening è una sorta di propedeutica all'improvvisazione, propedeutica in generale all'espressione creativa. Quindi che dove lo strumento dell'ascolto ti permette di entrare all'interno del, no, del flusso espressivo, ma con un altro genere di atteggiamento, quindi come può essere emettere del suono in risposta a dei suoni del soundscape, dove quindi tu non diventi più performer cancellando la presenza di altri suoni attorno a te, ma ti stabilisci come un'ennesima relazione all'interno di una rete di relazioni sonore, no? E questo cambia totalmente sia la tua sensazione nello stare nell'atto creativo, sia anche la percezione in realtà del pubblico di che cosa stai facendo in quel momento, di che cosa stai portando. Allora, noi abbiamo strutturato questo simposio, che tenteremo di tradurre anche in un podcast, affrontando il tema del discorso in maniera centripeta, partendo da diversi punti di vista. Ogni autrice ed ogni autore invitato, ad ogni autrice e ad ogni autore invitato è stato chiesto poi di apportare un contributo che riguardi il tema che affrontiamo. E direi che è il momento di così introdurre il vostro contributo. Allora, noi oggi abbiamo portato il nostro nuovo progetto, che è la prima volta che prende questa forma, la prima di tante, si spera, che si chiama Exercise for Listening Attunement. E fondamentalmente si tratta di delle score. Sì, partiture testuali. Che noi abbiamo affidato a varie persone con cui abbiamo un rapporto di vicinanza emotiva, e a ciascuna di queste persone abbiamo affidato questo esercizio, diciamo, di ascolto. E poi il risultato di questi esercizi ci è stato ridato da queste persone, e noi l'abbiamo messo insieme. Quindi quello che si sentirà è un insieme della mia voce che dice l'esercizio affidato e il risultato della persona. Le persone hanno sviluppato questo risultato, questo prodotto, in totale autonomia? Sì. Da sole? Totale autonomia, e magari è importante aggiungere che non sono tutti musicisti, parliamo di sia compositori che musicisti, ma anche persone che non fanno questo di mestiere. E quindi è stato molto interessante vedere come ognuno di loro ovviamente portava tutto il suo, come dire, precipitato di esperienze e dava un suo contributo, anche ovviamente completamente diverso, anche se la score magari era la stessa. Certo. E l'unica cosa che vogliamo fare prima di sentire questo contributo insieme, sì, è ringraziare appunto le persone che hanno partecipato e che hanno fatto sì che questo risultato fosse possibile. E quindi sentirete i lavori di Simone Spampinato, di Anna Kaisa Mecklin, di Francesca Naibo, Ivan Liuzzo, Fulvia Gallo e Leonardo Amiri. Quindi grazie mille a queste persone per la loro partecipazione e il loro entusiasmo. Perfetto, partiamo. Trascrivi un paesaggio attraverso un unico suono. Di lo stesso segreto con suoni diversi. Ripetilo quante volte ritieni necessario. Raggiungi una voce senza fretta. Questa stanza mi ha sempre ascoltata. Questa stanza mi ha sempre ascoltata. Cerca un suono che oscilla molto lentamente. Lascia che il tuo respiro ne venga modificato. Quando senti l'impulso del respiro e quello dell'oscillazione fondersi, trasformali in suono. Thank you. Cerca uno spiraglio di luce, da una persiana o da una crepa, ed emetti un suono per te simile a quella luce. Attendi, o immagina, che il raggio di luce diventi penombra. Rendi udibile il tempo attraverso più suoni. Notiamo come si aprano delle cosmogonie individuali di fronte a queste domande che avete posto. L'ascolto è una dimensione soggettiva che si mette in pratica attraverso un mezzo condiviso, che è quello del suono. In un momento come quello attuale, in cui ogni forma di binarismo viene pressoché ostracizzata, la dualità ascolto-suono conferma la necessità di questi dualismi. Sì, no, diciamo è una questione molto sensibile e anche difficile da interpretare in qualche modo. Hai presente quella domanda zen, quella affermazione zen un po' sciocca ma altrettanto veritiera, che chiede se non c'è nessuno che ascolti un albero che cade nella foresta, se l'albero produce suono? Sì, l'avevo sentito. Diciamo che appunto la nostra condizione, poi parlo ovviamente sia condizione anche come artisti, è quella di in qualche modo saper confrontarci continuamente con questa attenzione, e sta un po' a noi saper creare anche nella didattica, anche nelle situazioni un pochino più complesse, come quelle, poter portare in qualche modo questa attenzione non soltanto nei luoghi che noi generalmente operiamo, ovvero nelle attività concertistiche, nelle situazioni performative d'arte, ma portarle appunto ad un pubblico che tendenzialmente non sa, oppure magari non è abituata a in qualche modo accorgersi, avere la possibilità in qualche modo che qualcuno possa anche soltanto con un dito indicare, anzi con un orecchio indicare, le possibilità che in qualche modo di attenzione alla vita. Poi possiamo parafrasare, ragazzi, secondo voi l'affermazione che bisogna ascoltare l'ascolto con quella che bisogna stare attenti all'attenzione? Assolutamente. È una pratica che va coltivata e messa in pratica per l'appunto quotidianamente e costantemente. Pauline diceva che il suo motto era ricordati di ricordarti di ascoltare, mm-hmm. No? Mm-hmm. Quindi è proprio il continuo perdere quella consapevolezza e continuamente ritrovarla, senza che questo perderla, che è un ciclo naturale, venga percepito come un dolore, un fallimento, ma semplicemente ricordandosi che se il più spesso possibile si ritorna al portare attenzione, allora questi cicli, no, avranno una frequenza sempre maggiore, sempre più frequente, finché probabilmente no, le ondate andando nella direzione di un'attenzione sempre più presente, rispetto che sentire la presenza di attenzione come un momento miracoloso, come può essere l'essere messi sulla sedia nel teatro, si apre il sipario e tu sai che quello è il momento miracoloso in cui la tua attenzione diventa percepibile, mentre invece quando inizi a portare l'attenzione al suono che fa il tuo tè che versi dentro la tazza, è perché questo processo, che è ugualmente miracoloso, però diventa sempre più piccolo, sempre più costante e frequente. Sì. Quindi sì, diciamo che si mescola un po' di più con la trama della vita. Ed è anche un altro modo per forse trovare altro, magari anche nell'arte, nella musica stessa. Cioè, saper ascoltare in maniera diversa significa anche poter apprezzare in maniera diversa e ascoltare continuamente altro, trovare qualcos'altro sempre nel suono, nella musica, nelle arti anche sonore. Certo, è una cosa che è un avvicinare le due cose, che ovviamente funziona da entrambe le parti, e fondamentalmente una cosa che è implicita, ma non spesso non viene detta dal lavoro di Paolina, è che lei non cercava di fare un lavoro artistico quando ha inventato il deep listening. Per lei era una risposta a un momento di guerra, quindi tra l'altro forse anche bene che ne stiamo parlando proprio oggi, ed era un atto collettivo, politico, e lei lo definisce prima di tutto un atto di cura, un atto di cura collettiva. E quindi l'avvicinare la vita all'arte, l'arte alla vita, sicuramente è la cosa che può dare più senso possibile ad un'azione artistica che ha come obiettivo ultimo la cura collettiva. Immagino che nella quotidianità che ci inonda di tsunami, di disattenzioni, mantenere alto il livello dell'attenzione sia anche questo uno sforzo eroico e da tenere presente. Ricordare di ricordarsi è già difficile di per sé, però noto che ci sono delle pratiche artistiche, Marco, in cui l'ascolto viene sostenuto, amplificato e innesca in diretta, istantaneamente, delle reazioni artistiche. Faccio per esempio riferimento all'interplay del jazz, no? Quando un musicista del gruppo inizia a improvvisare e le orecchie dei rimanenti componenti del gruppo notano questa improvvisazione e la seguono. È una metodologia in diretta, per l'appunto, di ascolto e messa in pratica di una creatività. Assolutamente, sia il musicista sia il pubblico stesso in qualche modo emette una parte in qualche modo di sé all'interno anche del processo creativo stesso, anche se magari non il pubblico non suona, non è lì nell'atto performativo, ma crea un senso attraverso l'ascolto. E questo avviene sia nel jazz, ma come anche in altre pratiche artistiche. Ci sono molti compositori che in qualche modo non mettono, sai, la storia del Novecento spesso, del XX, del XXI secolo, ha visto in qualche modo il suono come il centro, quindi il timbro e tutto quello che sono le qualità del suono. Invece alcuni compositori o altri artisti hanno messo proprio l'ascoltatore, quindi l'orecchio, come in qualche modo il primo punto, il contatto centrale, anzi la polarità centrale. E in qualche modo questi compositori, questi artisti sono riusciti a indicare come utilizzare il fenomeno, o comunque sentire il fenomeno della performance, come un momento rituale, sì, ma anche di esplorazione e in qualche modo di, come diciamo prima, di allargamento della propria percezione. Ascoltare, ascolta continuamente altro, diceva Luigi Nono, e significava proprio, ecco, qualcuno che educati all'ascolto, diceva lui, riprendendo anche una frase di un monastero di Toledo, diceva: no è camino, è che qua camminar, quindi non ci sono cammini, ma bisogna camminare. Sì. In qualche modo anche l'ascolto, l'orecchio può camminare e espandere, e può portare, come al solito, a aprirsi al mondo. Allora, Diana Lola Posani e Marco De Martino, io sono molto onorato che voi abbiate partecipato e aperto questo simposio. Vi faccio un ringraziamento di cuore sentito. Grazie a te per averci invitato. Grazie. Buon tutto, ricordatevi di ricordare.